Istruzioni per la pratica di Vipassana di Mahasi Sayadaw. La pratica della meditazione Vipassana consiste nello sforzo fatto dal meditante di capire correttamente la natura dei fenomeni psicofisici che avvengono nel proprio corpo. I fenomeni fisici, le cose o gli oggetti che uno percepisce nell'intero corpo, costituiscono il gruppo di qualità materiali chiamate rupa. I fenomeni della mente o mentali si chiamano nama. Ogni volta che c'è vista, odore, suono, gusto, contatto o pensiero, si percepisce chiaramente che questi fenomeni di nama rupa o corpo-mente stanno accadendo. Ne diveniamo consapevoli, osservandoli e annotandoli. Quando vediamo qualcosa, annotiamo vedere, vedere. Quando udiamo, annotiamo udire, udire. Quando odoriamo, odorare, odorare. Quando gustiamo, gustare, gustare. Quando tocchiamo, toccare, toccare. E quando pensiamo, pensare, pensare. Ogni volta che il meditante vede, ode, odora, gusta, tocca o pensa, deve prendere nota dell'avvenimento, del fatto. All'inizio della pratica non si riesce a prendere nota di tutto ciò che capita. Si deve però prendere nota perlomeno di quei fenomeni che sono facilmente e chiaramente percepibili. Ad ogni respiro l'addome si alza e si abbassa. Il movimento è evidente. Questa è la qualità materiale, conosciuta come Vayu Dhatu o elemento aria. Bisogna cominciare col notare questo movimento, cosa che avviene quando la mente è concentrata ad osservare l'addome. Troverete che l'addome sale quando inspirate e scende quando espirate. Il salire deve essere notato mentalmente come salire, salire, e lo scendere come scendere, scendere. Se il movimento non è chiaro, pur continuando a notare, tenete il palmo della mano sull'addome. Non alterate il modo di respirare, non rendetelo più lento o più veloce, né troppo vigoroso. Alterare il respiro vi procurerà stanchezza. Respirate normalmente, come al solito, e notate il salire e scendere dell'addome, così come avviene. Notatelo mentalmente, non verbalmente. Nella meditazione Vipassana non è importante il nome che date, ma è importante il fatto di notare e percepire. Notate il salire dell'addome dall'inizio alla fine del movimento, come se lo seguiste con gli occhi. Fate lo stesso con il movimento di discesa dell'addome. Notate in modo tale che la consapevolezza sia simultanea al movimento. La stessa cosa con l'addome che scende. La mente potrebbe distrarsi mentre notate il movimento addominale. Anche questo va notato, dicendo mentalmente divagare, divagare. Quando è stato notato una volta o due, la mente smette di distrarsi e allora tornate al salire e scendere dell'addome. Se immaginate di incontrare qualcuno, notate incontrare, incontrare e poi tornate al salire e scendere dell'addome. Se immaginate di incontrare e parlare con qualcuno, notate parlare, parlare. Insomma, ogni pensiero che sorge va notato. Se state immaginando, notate immaginare. Se pensate, notate pensare. Se progettate, progettare. se riflettete, riflettere. Se siete contenti, notate contentezza. Se vi sentite annoiati, notate noia. Se siete sereni, serenità. Se vi sentite scoraggiati, scoraggiamento. Notare tutti questi oggetti della mente è chiamato, nella lingua pali, cittanupassana. Se non riusciamo a notare questi atti di coscienza, saremo portati ad identificarli con una persona o un individuo. Pensiamo che ci sia un io che immagina, che pensa, che pianifica, che conosce o che si annoia. Crediamo che sin dall'infanzia sia sempre la stessa persona che è vissuta e ha pensato. Nella realtà una tale persona non esiste. C'è invece una successione continua di atti di coscienza. Ecco perché dobbiamo conoscere questi atti di coscienza e conoscerli per quello che sono. Conoscere ogni singolo atto di coscienza man mano che sorge. Quando li si osserva, tendono a scomparire e se ciò accade, torniamo a notare il salire e scendere dell'addome. Dopo un po' che meditate, sensazioni di rigidità e bruciore tendono a sorgere nel corpo, anche se vanno notate attentamente. Lo stesso con le sensazioni di stanchezza e dolore. Tutte queste sensazioni sono chiamate in pali dukkha vedana o sensazione di insoddisfazione e il notarle si chiama vedana nupassana. Se mancate di notarle, potreste arrivare a pensare io sono rigido, io sento caldo, oppure io ho un dolore. È sbagliato identificare queste sensazioni con l'ego. Non c'è un io coinvolto, ma solo una successione di sensazioni spiacevoli, una dopo l'altra. È solo una successione continua di impulsi elettrici, come in una lampadina. Ogni volta che vi è un contatto spiacevole nel corpo, sorgono sensazioni spiacevoli, una dopo l'altra. Queste sensazioni vanno notate attentamente, sia che si senta rigidità, oppure bruciore o dolore. All'inizio della pratica di meditazione, queste sensazioni possono aumentare e portare al desiderio di cambiare posizione. Va notato anche questo desiderio. E poi il meditante deve tornare a notare le sensazioni di rigidità, di caldo, eccetera. La pazienza porta al Nibbana. È un detto che va tenuto presente. Bisogna essere pazienti nella meditazione. Se uno si muove o cambia postura troppo spesso, perché non sa essere paziente con le sensazioni spiacevoli che sorgono, non può sviluppare la concentrazione o samadhi. Se samadhi non si sviluppa, non può sorgere l'intuizione profonda o insight. E non ci può essere la realizzazione del sentiero che conduce al Nibbana e del pala o frutto di questo sentiero. E quindi non ci può essere il Nibbana stesso. Per questo c'è bisogno di pazienza nella meditazione. E c'è bisogno di pazienza soprattutto con le sensazioni spiacevoli, come rigidità, calore, dolore, eccetera. In altre parole, le sensazioni difficili da sopportare richiedono di stare con essi pazientemente e attentamente, e questo significa essere consapevoli man mano che sorgono. Non si deve abbandonare la sala di meditazione appena sorgono queste sensazioni, ma anzi si deve andare avanti notando rigidità, calore, calore, eccetera. Le sensazioni come queste spariranno se si continua a notarle pazientemente. Quando la concentrazione è forte, perfino le sensazioni più intense tendono a scomparire. Poi si torna a notare il salire e scendere dell'addome. Naturalmente, se dopo un lungo periodo di tempo, avendo continuato a notarla, la sensazione non sparisce o diventa troppo insopportabile, allora si può cambiare posizione. Si comincia col notare desiderio di cambiare e si alza il se si alza il braccio, notate alzare, alzare e quando lo si muove, muovere, muovere. Tutti i movimenti per cambiare posizione vanno fatti lentamente e notati. Alzarsi, muoversi, toccare, eccetera. Se il corpo oscilla, notate oscillare. Se il piede si alza, notate alzare. Se si muove, muovere. Se si abbassa, abbassare. Se invece non c'è il cambiamento, ritornate ad osservare il salire e scendere dell'addome. Non ci deve essere alcuna soluzione di continuità, nessun intervallo tra un atto di notare e il successivo, tra uno stato di concentrazione e il seguente, tra un atto di coscienza e l'altro. Solo così il meditante arriverà a stati sempre più elevati di comprensione. La conoscenza del sentiero e della sua fruizione sarà raggiunta solo quando ci sarà questo tipo di spinta in alto. Il processo meditativo è come sfregare insieme energicamente, senza sosta, due bastoncini di legno per ottenere la giusta intensità di calore che faccia nascere la fiamma. Allo stesso modo, questa notazione mentale nella meditazione vipassana deve essere continua e senza soste, senza nessuna pausa tra i vari atti del notare ogni singolo fenomeno che sorge. Per esempio, se si prova una sensazione di prurito e il meditante vuole grattarsi, va notata sia la sensazione che il desiderio di liberarsene, senza però passare immediatamente all'atto di grattarsi. Se si continua e si persevera nel notare mentalmente in questo modo, il prurito generalmente sparisce, nel qual caso si torna all'addome. Se il prurito invece non va via, si deve naturalmente eliminarlo grattandosi, ma prima bisogna notare accuratamente il desiderio di farlo. Tutti i movimenti necessari per eliminare la sensazione vanno notati mentalmente, come toccare, premere, grattare, e poi si ritorna a salire e scendere dell'addome. Ogni volta che cambiate posizione, cominciate notando l'intenzione o il desiderio di fare questo cambiamento e andate avanti notando attentamente ogni movimento, come l'alzarsi dal proprio posto, il sollevare il braccio, il movimento, l'attenzione del braccio. Dovete notare i movimenti contemporaneamente all'attimo in cui li state compiendo. Se il corpo oscilla in avanti, notatelo. Quando vi alzate, il corpo diventa leggero o si alza. Concentrate la mente e annotate gentilmente alzarsi, alzarsi. I meditanti si dovrebbero comportare come se fossero degli invalidi. Generalmente le persone si alzano facilmente, velocemente, improvvisamente, ma quando gli invalidi non lo possono fare, si alzano molto lentamente e con molta attenzione. Anche quelli che hanno mal di schiena si alzano con molta attenzione per evitare delle fitte dolorose. La stessa cosa fa il meditante. Deve iniziare a cambiare la sua postura con consapevolezza, gradualmente e lentamente, e nel contempo notare mentalmente alzarsi, alzarsi. Solo allora la consapevolezza e la concentrazione faranno sviluppare e gradualmente maturare l'intuizione profonda. E non solo. Sebbene gli occhi funzionino, il meditante deve comportarsi come se non vedesse. È la stessa cosa con l'udito. Quando medita, deve solo occuparsi di essere consapevole e notare. Non lo riguarda ciò che sente o vede. Deve comportarsi come se non vedesse e non sentisse. Ci deve essere solo una nota mentale continua e accurata. Quando, durante la giornata, il meditante si muove, lo fa gradualmente e lentamente, come se fosse debole. Deve muovere le gambe e le braccia lentamente e sempre lentamente abbasserà o alzerà la testa. Tutti questi movimenti devono essere fatti dolcemente. Quando è seduto, si alza, lo deve fare gradualmente, notando alzarsi, e quando sta in piedi nota in piedi. Quando si guarda di qua e di là nota guardare o vedere. Quando cammina nota i passi e se sta camminando con la gamba destra o con la sinistra. Inoltre, quando cammina veloce deve essere consapevole di tutti i movimenti in successione, dal momento che alza il piede fino a quando non lo abbassa. Quando si cammina lentamente, durante la meditazione camminata, bisogna notare tre movimenti in ogni passo. Quando si alza il piede, quando il piede avanza e quando si abbassa. All'inizio notate solo i movimenti di alzarsi e abbassarsi. Uno deve essere consapevole quando il piede si alza e lo stesso quando il piede si abbassa. Deve notare questo alzarsi e abbassarsi ad ogni passo. Questo nominare, questa etichetta mentale, diventerà facile dopo qualche giorno. E allora potete passare a nominare tutti e tre i movimenti. Alzare, avanzare, abbassare. Alzare, avanzare, abbassare. Ricapitolando, all'inizio o quando si cammina velocemente, basta sapere che il piede si muove e notare sinistro, destro, sinistro, destro. Quando si cammina normalmente, si notano i due movimenti di alzarsi e abbassare del piede. Quando si cammina lentamente si notano i tre movimenti, come ho spiegato sopra. Mentre si sta camminando e viene voglia di sedersi, bisogna notare voglia di sedersi. Quando vi sedete, osservate con concentrazione l'appoggiarsi del corpo sulla sedia. Quando siete seduti, notate i movimenti che fate per sistemare le gambe e le braccia. Quando non ci sono movimenti, il corpo è fermo, notate solo il salire e scendere dell'addome. Se, mentre state notando una rigidità nel corpo, nelle gambe o nelle braccia, sorge una sensazione di calore, notatela mentalmente e accuratamente e poi tornate al salire e scendere dell'addome. Se vi viene voglia di sdraiarvi, notatelo e notate anche il movimento delle gambe e delle braccia mentre vi sdraiate. E poi il movimento del braccio, l'appoggiarsi del gomito che tocca il pavimento, l'oscillare del corpo, l'allungarsi delle gambe, il graduale ripiegamento del corpo mentre si prepara a sdraiarsi. Vanno notati tutti questi movimenti. È importante notare tutto questo processo, perché nel farlo potete avere una chiara conoscenza del sentiero del suo frutto. Infatti, quando la concentrazione e l'insight sono forti e maturi, la conoscenza può venire ad ogni istante, può arrivare in un singolo piegamento o stiramento del braccio. Questo accadde ai tempi del Buddha, subito dopo la sua morte, quando il venerabile Ananda, il suo attendente, divenne un arahant, cioè un perfettamente risvegliato. Il venerabile Ananda aveva tentato disperatamente di raggiungere lo stato di arahant nella notte precedente il primo grande concilio. Aveva praticato tutta la notte la vipassana. Notava i passi, destro, sinistro, l'alzarsi, l'avanzare, l'abbassarsi del piede, notando tutto ciò che man mano accadeva, come il desiderio fisico di camminare e il movimento che avveniva ad ogni passo. Sebbene tutto questo andasse avanti fino quasi all'alba, non aveva ancora ottenuto la realizzazione. Capì che aveva fatto la meditazione camminata per troppo tempo e che avrebbe dovuto equilibrare la concentrazione con lo sforzo. Decise perciò di continuare a fare la meditazione nella posizione sdraiata. Entrò nella sua stanza, sedette sul giaciglio e poi cominciò a sdraiarsi. Mentre faceva ciò, annotando accuratamente sdraiarsi, raggiunse il primo stadio di illuminazione in un istante. Il venerabile Ananda, prima di quel momento, era solo un sotapagna, cioè uno che è entrato nella corrente, cioè era al primo stadio del sentiero verso il Nibbana. Dallo stadio di sotapagna raggiunse il secondo stadio, cioè di colui che ritorna una sola volta, poi il terzo, quello di colui che non ritorna, e infine raggiunse l'ultimo stadio nel cammino dell'illuminazione, divenendo un arahant. Passare attraverso questi tre eccelsi stadi del sentiero gli prese pochissimo tempo. Riflettete su questo esempio del venerabile Ananda. Tale realizzazione può arrivare da un momento all'altro. È per questo che i meditanti devono notare diligentemente e in modo continuativo. Non bisogna rilassarsi nel prendere queste note mentali, pensando, questo non è poi così importante. Tutti i movimenti che si fanno per sdraiarsi sono importanti e devono essere notati al meglio e il più accuratamente possibile. Se non ci sono movimenti, il corpo è fermo, tornate a salire e a scendere dell'addome. Anche quando si fa tardi e giunge il tempo di andare a dormire, il meditante non va a dormire lasciando perdere la concentrazione. Un meditante serio e impegnato cercherà di praticare la concentrazione anche mentre sta per addormentarsi. Andrà avanti a meditare fino a un momento in cui il sonno arriverà da solo. Se la meditazione è buona e profonda, non si addormenterà, ma può capitare invece che il sonno abbia la meglio e il meditante si addormenti. Se sente sonno, deve notare sonno, sonno. E se le palpebre si chiudono, deve notare chiudersi, chiudersi. Se diventano pesanti, notare pesanti. Se gli occhi bruciano, bruciare. Notando in questa maniera, può darsi che sparisca il torpore e gli occhi diventino di nuovo chiari. Allora notate chiari. E poi andate avanti, notando il salire e scendere dell'addome. Così si può continuare a meditare, e se sorge un pesante torpore, finalmente il meditante si addormenterà per davvero. Se meditate nella posizione sdraiata, diventerete sempre più sonnolenti e infine vi addormenterete. Ecco perché i principianti non dovrebbero meditare in questa posizione. Ma quando viene il tempo per dormire, meditate nella posizione sdraiata, seguendo il salire e scendere dell'addome. E poi, naturalmente e automaticamente, vi addormenterete. Il tempo del sonno è il tempo di riposo per il meditante. Ma un meditante molto impegnato dovrebbe cercare di limitarlo a 4 ore. 4 ore di solito sono sufficienti. Se il meditante principiante pensa che 4 ore non siano sufficienti alla salute, può dormire anche 5 o 6 ore. 6 ore sono certamente abbastanza per la maggior parte delle persone. Quando il meditante si sveglia, deve subito ricominciare a notare. Il meditante che vuole raggiungere l'illuminazione sospende la meditazione solo quando dorme. Il resto del tempo deve notare continuamente senza sosta, nominando il più accuratamente possibile, fin dal risveglio. Sveglio, sveglio. E poi gli altri stati. Se non ci riesce subito, osserva il salire e scendere dell'addome. Se intende uscire dal letto, nota l'intenzione di uscire dal letto e poi tutti i movimenti delle gambe e delle braccia nel fare ciò. Quando alza la testa, nota alzare. Quando si siede, sedere. È importante che ogni volta che cambia posizione, muove le braccia o le gambe, prenda nota di tutti questi movimenti. Se non ci sono movimenti e si sta seduti tranquillamente, allora si nota il salire e scendere dell'addome. Si deve notare anche quando ci si lava la faccia o si fa la doccia. Siccome i movimenti in questo caso sono rapidi, si cerca di notarli il meglio possibile. Poi c'è il vestirsi, il sistemarsi il letto, aprire e chiudere le porte. Tutto questo deve essere notato il più accuratamente possibile. Quando il meditante pranza e si avvicina al tavolo, nota guardare. Quando allunga la mano, prende il cucchiaio, si serve del cibo, quando lo mette nel piatto, quando porta il cucchiaio alla bocca, quando la testa si china, quando mette in bocca il cibo, abbassa il braccio, lo alza per un altro boccone, deve notare tutti questi movimenti più accuratamente e continuamente possibile. Quando il meditante mastica, noterà masticare. Quando sente il sapore del cibo, noterà gustare. Ho notato anche il movimento di masticare, di rendere liquido il cibo e di ingoiarlo. E bisogna continuare a essere consapevoli di tutto ciò che sta capitando. Durante i pasti c'è talmente tanto da notare che il principiante spesso salta molte cose che invece andrebbero notate. Comunque dovrebbe metterci la migliore buona volontà. Man mano che la concentrazione diventa più intensa e continua, il meditante riuscirà a seguire sempre di più ciò che sta avvenendo. Abbiamo parlato di molte cose che vanno notate, ma per riassumere ci basti menzionare poche cose che vanno assolutamente notate. Quando si cammina velocemente, notare passo sinistro e passo destro. Quando si cammina normalmente, notare l'alzarsi e l'abbassarsi del piede. E quando si cammina molto lentamente, notare alzare, avanzare e abbassare del piede. quando si è sdraiati o seduti, notare l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, se non c'è nient'altro di predominante da notare. Se la mente divaga, notate i vari atti di coscienza che sorgono e poi di nuovo tornate al salire e scendere dell'addome. Notate anche le sensazioni di rigidità, dolore o prurito man mano che vengono e poi tornate all'alzarsi e all'abbassarsi dell'addome. Notate, man mano che avvengono, il sollevamento, lo stiramento e il movimento delle gambe e delle braccia, il chinarsi, il movimento della testa, l'oscillare, il chinarsi del corpo e poi tornate all'alzarsi e abbassarsi dell'addome. Man mano che procedete, vedrete che ci sono sempre più cose da conoscere nei fenomeni che avvengono. All'inizio, siccome la mente vaga di qua e di là, il meditante non riesce a notare molte cose che accadono. Ma non deve scoraggiarsi. Tutti i principianti incontrano le stesse difficoltà. Con la pratica il meditante riuscirà ad accorgersi della mente che divaga, fino a quando questa non divagherà più. La mente rimane fissa sull'oggetto. E la consapevolezza è quasi simultanea con l'oggetto dell'attenzione, come l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. In altre parole, l'atto dell'alzarsi o abbassarsi dell'addome è simultaneo all'atto di notarlo mentalmente. Gli oggetti fisici dell'attenzione e i contenuti mentali sono notati in coppia, insieme, e si capirà che non vi è nessuno coinvolto in questa azione. C'è solo l'oggetto fisico dell'attenzione e l'attività mentale del notare, e questi sorgono simultaneamente. Il meditante può sperimentare personalmente questo fenomeno. Mentre segue l'alzarsi dell'addome, imparerà che c'è il fenomeno fisico dell'alzarsi e l'atto mentale che nota l'alzarsi. Lo stesso vale con l'abbassarsi dell'addome. Il meditante imparerà a vedere la simultaneità di ciò che capita, vedendo tutto come fenomeni fisici e mentali che sorgono in coppia. Appaiati. Quindi in ogni atto del notare il meditante imparerà che c'è solo una qualità materiale come oggetto di attenzione e una qualità mentale che ne prende nota. Questa conoscenza è la prima dei Vipassana Jnana, cioè degli insights di Vipassana, ed è importante raggiungere tale conoscenza correttamente. Poi il meditante raggiungerà la seconda di questi Vipassana Jnana, il secondo insight, e riuscirà a distinguere tra causa ed effetto. Man mano che i meditanti continuano nella loro meditazione, vedranno da loro stessi che tutto ciò che sorge dopo un po' sparisce. La gente comune pensa che i fenomeni, sia fisici che mentali, durino tutta la vita nella stessa maniera, dalla gioventù alla vecchiaia. Ma non è così. Non esiste fenomeno che duri per sempre. Anzi, ogni fenomeno avviene e sparisce continuamente. Non dura più di un batter d'occhio. Lo sperimenterà il meditante andando avanti a notare. Si accorgerà dell'impermanenza di tutti i fenomeni. A questa comprensione seguirà la consapevolezza di dukkha, cioè il dukkha jnana, cioè la comprensione che tutto ciò che non dura crea sofferenza. Il meditante sperimenterà anche molti dolori nel corpo, che non è altro che un aggregato di sofferenze. Anche questo si chiama Dukkha Nupassana Jnana. Poi il meditante si convincerà che tutti questi fenomeni psicofisici capitano senza la sua volontà e senza il suo controllo. Non fanno parte di un'entità personale o egoica. Questa realizzazione si chiama Anatta Nupassana Jnana. Quando, proseguendo nella meditazione, i meditanti arriveranno a capire chiaramente che tutti questi fenomeni sono aniccia, cioè impermanenti, dukkha, cioè insoddisfacenti, e anatta, cioè vuoti di un'entità egoica, realizzeranno il Nibbana. Tutti i Buddha e tutti gli Arahant hanno raggiunto il Nibbana seguendo questo sentiero. Tutti i meditanti dovrebbero sapere che sono sul sentiero del Satipatthana verso il Nibbana. Dovrebbero essere contenti per questo e per la prospettiva di poter sperimentare questo nobile tipo di samadhi o tranquillità della mente dovuta alla concentrazione. E anche contenti di ottenere la conoscenza ultramondana sperimentata nel passato dai Buddha, dagli Arya, e che loro stessi ora potrebbero sperimentare. Tutto ciò può avvenire nello spazio di un mese, o di 20, 15, o anche solo 7 giorni. Il meditante deve dunque essere contento nella certezza che raggiungerà presto questi traguardi. Deve solo proseguire nella pratica, fiducioso nella riuscita. Che tutti possano praticare la meditazione e possano raggiungere l'illuminazione che Buddha e Arahant hanno già sperimentato. Sadhu, sadhu, sadhu.